Vincenzo Varchetta. Buonasera Varchetta. Come Buonasera. va? Ebbene, Quanti anni ha lei Varchetta? Se, scusi, io gliel'ho chiesto. 31. 31, dunque giovanissimo. Sì. Ed è candidato dell'Udeur alle prossime elezioni regionali, giusto? Sì. Senta, le chiedo una cosa. Io qui su Facebook, girovagando un po', ho letto, lei scrive: contattatemi perché posso offrirvi importanti possibilità lavorative. Enzo Varchetta, dottore di ricerca. Un Praticamente. attimo solo, Varchetta. Sì. Enzo Varchetta, dottore di ricerca in alimenti e salute. Alimenti e salute, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Studi di Napoli, Federico II. E poi c'è il suo sito internet, vincenzovarchetta.com, e poi c'è un numero di telefonino che è il suo. Sì. Allora, che significa contattatemi perché posso offrirvi importanti possibilità lavorative? No, sa, Sembra perché a una sorta Napoli. di voto di scambio. No, no, no, non è per niente un voto di scambio. Forse il voto di scambio si fa nelle strutture pubbliche, ma intendevo parlare di Beh, non un'attività. solo nelle strutture pubbliche. No, un'attività privata di una multinazionale tedesca, e infatti su Facebook io avevo fatto pure un invito per venerdì 12, è pubblico e l'hanno visto tutti, qualcuno è pure stato lì con me, presente, ma ad ascoltare, non era una cosa legata alle elezioni politiche, Come infatti. non è legata alle elezioni politiche? Certo che è legata alle elezioni politiche. Su Facebook c'è il suo Sì, ma manifesto e dopo a questo parte che io sono annuncio. giovanissimo e per le elezioni regionali ci vogliono migliaia di voti, non E so allora? No, se. E no, ma non ho è capito, legato. Varchetta, non è legato, è legato alle elezioni politiche perché c'è il suo manifesto su Facebook e immagino anche per strada, poi Per su strada Facebook. pochissimo perché non è che abbiamo tutti questi soldi E per vabbè, mettere comunque, tutti i insomma, su Facebook manifesti. c'è questo manifesto riprodotto e dopo c'è questo annuncio. Ora, quando uno annuncia, ed è in campagna elettorale, che posso offrirvi importanti possibilità lavorative, che vuol dire? Mi spieghi? No, ma io sono curioso. Ho invitato all'Hotel American Hotel il 12 per far conoscere questa attività di business di un'azienda tedesca. E che sarebbe questa azienda? No, Non posso fare il nome, lo però può fare perché a noi non ce ne frega niente. no, non Comunque, posso farlo per non rispetto lo può fare. all'azienda, o rispetto dell'azienda, non. Beh, Sì, erano degli amici, magari quindi all'azienda fa con piacere. ingenuità Comunque. pure di alcuni collaboratori a mettere sta notizia, ma comunque subito l'ho fatta togliere perché non esiste proprio, perché non voglio legare questa cosa alle elezioni sicuramente. Però mi Elezioni sulle scusi, quali non è nessuna mi scusi un velleità di attimo, essere eletto, No, ma comunque poi la... vediamo come vanno, ma sì, ma adesso comunque. lasciamo perdere il fatto che lei abbia possibilità o no di essere eletto, però se uno mette i suoi collaboratori o lei direttamente un annuncio del genere, sembra che lei voglia offrire un posto di lavoro, un'opportunità di lavoro, eccetera, a chi la vota. Insomma, adesso non giriamo troppo intorno a questa cosa, è così. Varchetta, ammetta questa cosa. Elezione, guardi, io la invito il 21 marzo al Teatro Troisi a Napoli e lì potrà conoscere questa attività che è indipendente, quindi se lei pure volesse farla può scegliere liberamente di farla. No, ho capito. E quindi lei mica mi deve poi votare. No, ma certo, Mica le chiedo il voto in non è che cambio. c'è un obbligo. Dopodiché, Anzi, guardi, se lei io associa, mi scusi un però stavo attimo. concludendo, mi scusi. Prego. Io voglio dire, se io guardi, questa campagna la sto facendo molto soft perché io non ce l'ho con nessuno, anzi a me vorrei anche che tutti e due i poli stemperassimo un po' le Vabbè. critiche, perché praticamente, poi tra l'altro io precedentemente alle elezioni mi sono impegnato tanto per il sociale che sono arrivato pure alle elezioni un po' stanco e sa, poi per un ragazzo Varchetta, non giovane. si butti giù, però c'è la campagna elettorale, lei Lo so, lo fa. so, lo so, lo so. No, però ricevo sembra due che sta voti critiche e affrontando, mi non lo so, dispiace, non era legato una al sorta numero di dei calvario. voti. No, però, Perché insomma, però mi scusi, il mio Varchetta. augurio è solo che tutti i ragazzi di Napoli e Campania possano lavorare.